L'era dei robot di Simone Spezia. Learning by observation, imparare da quello che si vede o si osserva, come abbiamo raccontato, seppur in altre forme, in diverse puntate di questa trasmissione, per le macchine è una delle cose più difficili da fare. Ed è sostanzialmente su questo, ossia su come rendere i robot più simili a noi nell'apprendimento e quindi nell'azione successiva, che stanno lavorando da anni tutti coloro che li studiano e li progettano. La cosa più complessa a tutti gli effetti è questa: le macchine sanno muoversi perfettamente in un ambiente prevedibile, ma non altrettanto in uno imprevedibile. E ancora, se sanno muoversi in una realtà imprevedibile, è perché sono programmate per compiti specifici. Per esempio, i robot che si usano per pulire i pavimenti hanno un sistema rudimentale che consente loro di trovare, per così dire, le pareti e aggirare gli ostacoli. Il corpo umano è esattamente una realtà imprevedibile. Ciascuno di noi è diverso dall'altro. La ricerca su macchine che sappiano imparare a muoversi in un ambiente complesso e variabile sta entrando in un settore nel quale la robotica in realtà opera da anni: la chirurgia. Questa è l'era dei robot. Una buona giornata da Simone Spezia. E una buona giornata anche dalla macchina, che prima o poi ne prenderà il posto. Vi ricordo, come sempre, che per suggerire un nome da darmi, potete scrivere a eradeirobot@radio24.it. Fino ad oggi, quando si è parlato di robot usati in chirurgia, si è fatto sempre riferimento a qualcosa che ha a che fare con macchine comandate dalla mano di uno specialista, in grado di compiere micro interventi impossibili o quasi, o comunque molto difficili, con gli strumenti tradizionali. È un po' paradossalmente come i droni che vengono usati in battaglia per le operazioni di uccisione dei presunti terroristi. Non si muovono da soli, ma c'è un soldato che li comanda, magari a migliaia di chilometri di distanza. Un paradosso se pensate che le prime sono macchine che salvano vite, le seconde sono macchine che le tolgono. Eppure succede che all'Università di Berkeley in California stiano sperimentando macchine in grado di compiere in autonomia una serie di processi, quelli che al momento identifichiamo come i più semplici: il taglio e la sutura. Durante un intervento possono succedere molte cose, si possono presentare una serie di situazioni critiche che al momento un robot non è ancora in grado di affrontare. Ma quanto manca che arrivi a farlo? Ora eseguirò uno scan. Scan completato. Hai una lieve abrasione epidermica sul tuo avambraccio. Suggerirei l'uso di uno spray disinfettante. Wow, wow, wow. Che c'è esattamente nello spray? Il principio attivo è la bacitracina. Peccato, sono allergico a quella. Non sei allergico alla bacitracina. Hai una leggera allergia alle arachidi. Niente male. Questo passaggio di un film, devo dire, piuttosto divertente anche per gli adulti, Big Hero 6 della Disney, entriamo in un altro tema, non la chirurgia ma la professione medica in genere, tornando a porre una domanda: quando avremo a disposizione macchine in grado di analizzare perfettamente lo stato di un paziente, di accedere ad una quantità di informazioni impensabile per un essere umano, che fine faranno i medici? Ce n'è voluto per programmare questo coso, eh? L'ho programmato con oltre 10.000 procedure mediche. Abbiamo fatto una chiacchierata con Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, e gli abbiamo chiesto, prima ancora che come medico, come ricercatore, che effetto gli faccia tutto questo. Ma un effetto bellissimo: se noi avessimo la possibilità di avere una macchina che fa entrare un ammalato ed esce guarito, sarebbe un sogno. E quindi sono molto favorevole a questa cosa. Il problema è che non è così semplice realizzarlo. Quindi il problema, secondo me, non è tanto di aver paura del robot, di aver paura della tecnologia, di aver paura dell'informatica, di dire sono entrato nell'ufficio di un medico e ha passato più tempo al computer che guardandomi in faccia. Non è un problema. Il problema è: l'ha guarita questo medico o non l'ha guarita? Facciamo un passo indietro rispetto a quello che lei ha impostato benissimo, come è la chirurgia robotica. Uno dice c'è il robot, opera lui. Il vero problema è che il robot non opera ancora, perché è come il drone: per adesso lo si guida e lui va dove lo guidiamo, quindi ci vuole un uomo che lo guidi. Adesso ci sono dei robot che fanno un passo avanti, non sono soltanto, proprio come ha detto lei, dei robot che devono essere guidati, possono essere dei robot che fanno proprio delle cose loro. Penso che questo sia un enorme passo avanti e che non mette in discussione il ruolo del medico, poi eventualmente vedremo come, al quale ci dobbiamo preparare, perché il robot è in grado, per esempio, di analizzare qualcosa come 60 milioni di pagine di testo in un secondo. Chi di noi saprebbe fare una cosa del genere? E bisogna tener conto che le informazioni che ci sono in medicina oramai sono talmente tante e talmente complesse che metterle tutte insieme è al di fuori della capacità della mente umana. Quindi, se lei mi chiede se io vedo bene questo passo avanti, non lo vedo bene, lo vedo benissimo, perché penso che davvero questo cambierà la medicina. Non cambierà la medicina dei nuovi farmaci, non cambierà la medicina una nuova chirurgia, perché lì siamo già arrivati a dei livelli molto alti. Quello che cambierà la medicina sarà qualcuno che ci aiuta a applicare contemporaneamente tutte le conoscenze che sono disponibili in medicina al malato che abbiamo davanti. Allora noi cureremo quel malato lì e non cureremo quel malato come se fosse l'espressione della media degli ammalati. Noi facciamo uno studio con 20.000 pazienti che prendono un farmaco, 20.000 che prendono un placebo oppure un farmaco meno nuovo, confrontiamo e diciamo il farmaco nuovo è meglio o è peggio di quello che c'era già. E poi al nostro singolo paziente diamo il farmaco che ha funzionato nella media dei 20.000 malati, ma quel malato non riflette la media dei 20.000 malati. Può essere uno a cui quel farmaco gli fa male perché ha certe mutazioni di certi geni e noi non lo sappiamo, ma il computer lo sa. Questo è un punto interessante, e però mi viene in mente dall'altra parte un esempio di un lavoro nel quale l'automazione è entrata in maniera molto pesante, e mi riferisco al lavoro del pilota d'aereo. Ormai le cabine dei piloti di aerei sono completamente automatizzate, al pilota non è lasciato quasi nulla. Allora, che cosa succede? Succede che nel momento nel quale c'è un imprevisto, la macchina non funziona o funziona male, il pilota non è più in grado di intervenire con la prontezza e con la capacità che avrebbe avuto solamente 20 anni fa. Il rischio che il medico, al quale inevitabilmente in questa situazione andrà un compito, chiamiamolo così, di supervisione e di controllo sulla macchina, perda le sue capacità? No, io non credo. Il problema è che deve diventare un medico diverso, deve diventare un medico il quale è capace di prendere tutte le informazioni del computer e fare in modo di trarne vantaggio per il suo malato. Il pilota deve diventare un pilota diverso, ma non è che il pilota più ha l'automazione e peggio va. Più ha l'automazione, più l'attività del pilota è efficace e più è anche capace di intervenire, perché le sue capacità non si concentrano nel 90% delle operazioni che fa comunque la macchina, ma si concentrano nell'identificare eventuali errori della macchina o nell'integrare dove la macchina non arriva, il robot non arriva a parlare con gli ammalati. Non è che non parli, perché poi adesso ci sono dei robot che fanno quello che i medici chiamano il giro, entrano nelle stanze, è tutta cosa sperimentale, però si connettono con l'ammalato e mandano i dati a un medico che si trova al di là dell'oceano e sanno fare tutto da soli, poi il medico guarda e dà i suggerimenti. Però certo che quando si tratta di parlare con l'ammalato, di incoraggiare l'ammalato, di discutere con l'ammalato delle varie possibilità, tu hai il computer che ti dà tutte le possibilità, te ne dà 120, per una malattia per cui il medico da solo ne ipotizza 3, lui te ne ipotizza 120, allora la tua capacità non deve essere più quella da certi sintomi andare a trovare una malattia come se fosse Sherlock Holmes, è una malattia, una cosa molto primitiva quella che facciamo noi oggi. La tua capacità diventa la capacità dei 120 possibilità, quale si adatta al malato che tu hai di fronte. Quindi si tratta di sviluppare una capacità diversa. Noi, per esempio, non avevamo una volta un cervello capace di leggere. Avevamo un cervello che era capace di ricordare, ma non di leggere. Tanto è vero che Socrate e i suoi allievi diceva, per carità, non cominciate a scrivere, perché sennò perderete le capacità della memoria. Però il cervello capace di leggere ci ha aiutato a fare delle cose che la tradizione mnemonica non ci avrebbe consentito mai. Capisco benissimo il suo punto di vista e mi piace molto. Dall'altra parte però lo vedo come lievemente utopico, se mi permette, perché la tentazione di affidarsi completamente al computer ad un certo punto, perché non tutti i medici sono uguali, no? Evidentemente, non tutti hanno la stessa etica, la stessa passione, lo stesso amore per la professione e per i malati, e come lei sa benissimo, la tentazione di affidarsi completamente alla macchina può essere molto forte. Sì. Quelli che però non hanno passione per gli ammalati non vedono nella loro professione una gratificazione, per quello per cui un ammalato nuovo è una gioia, perché è la gioia di capire, di scoprire, di guarire. Quelli che non hanno questa tensione morale qui non ce l'avevano neanche prima e avevano anche meno mezzi a disposizione. Quindi non è poi la colpa della tecnologia, intendiamoci, con la tecnologia spariranno tanti medici. Qualcuno ha calcolato che negli Stati Uniti forse non serviranno più medici, dico negli Stati Uniti perché lei ha premesso, questo si sta sviluppando in California e quindi lì sarà dove si applica per primo. Forse spariranno 4 medici su 5. Quello che rimane dovrebbe essere quello che ha più motivazioni, è più appassionato, è più bravo con gli ammalati, è più interessato a integrare le enormi potenzialità del computer con le sue conoscenze a vantaggio degli ammalati. Così avete sentito Remuzzi, che insomma la cosa non gli dispiace per niente, insomma, il fatto che i robot e le macchine possano entrare così a fondo anche nella sua professione. Ovviamente non è per tutti così. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, sentiamo che cosa succede sulle strade e poi ritorniamo a parlare più in generale dell'argomento. Voleremo un po' più alto rispetto al solito e cercheremo di trattare il tema rispetto a come ce lo raccontiamo quotidianamente, a come ci raccontiamo questo avvento delle nuove tecnologie nella nostra vita e quanto il solo fatto che lo raccontiamo in questo modo, spesso in un modo negativo, possa influire su come poi effettivamente usiamo le macchine, su come le macchine vengono progettate. A tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... L'era dei robot. I robot di Westerlandia sono là per servirvi e per darvi la più singolare, originale vacanza della vostra vita. Ma qui non si tratta di macchine comuni. Queste sono il prodotto di una tecnologia avanzata, veniristica, che hanno quasi la complessità di un organismo vivente. In molti casi sono state impostate da altri computer. Non sappiamo esattamente come funzionano. Quando parliamo di automazione, quando parliamo di macchine, vogliamo ricordarlo soprattutto agli ascoltatori che ci sentono per la prima volta, non intendiamo solamente quello che la fantascienza ci ha insegnato ad identificare come robot. Per certi aspetti, anzi, e fatelo dire da uno che di fantascienza è appassionato, la fantascienza ci ha traditi, portandoci ad immaginare forme umanoidi. In realtà, la più potente manifestazione dell'automazione, della quale troviamo traccia nelle nostre vite attuali, è negli algoritmi che comandano una serie di operazioni. Perché non è possibile usare queste macchine in casa nostra? In casa nostra in realtà le abbiamo già, sono i nostri telefoni, i nostri computer, internet stesso per l'uso che ne facciamo, i social network come Facebook e Twitter, i cui meccanismi interni sono essenzialmente regolati da una macchina con un set di istruzioni piuttosto specifico e che agisce in autonomia. Lo stesso naturalmente vale per il sistema di ricerca di Google o per tutti quei sistemi di advertising, ossia di pubblicità automatici, che tracciano le nostre potenziali preferenze e ci propongono nuovi prodotti. Ora, con questa trasmissione siamo partiti da una riflessione sulla quale convergono alcuni economisti, non tutti. Questa nuova ondata di automazione, quella che verrà, che riguarderà i robot più propriamente detti, sottrarrà posti di lavoro. C'è da sottolineare che il ragionamento può essere fallace. Uno studio che qualche ascoltatore ha sottoposto alla nostra attenzione la settimana scorsa, realizzato dalla società di consulenza Deloitte, indica che negli ultimi 140 anni in Gran Bretagna sono stati creati più posti di lavoro nel settore della cura della persona, della salute, nel settore high-tech e in quello dei servizi alle aziende di quanti non ne siano stati distrutti a causa delle macchine in agricoltura e nel settore manifatturiero. È vero anche, dall'altra parte, che i posti di lavoro, per così dire, minacciati da queste nuove generazioni di macchine sono esattamente in alcuni dei settori citati. Non a caso, uno studio della stessa Deloitte di meno di un anno fa indicava come a rischio un terzo dei posti di lavoro in Gran Bretagna. Vedete com'è dura capirci qualcosa e come intorno a tutto questo ruoti una certa confusione e una serie di timori, evidentemente. Forse in parte dipende da come abbiamo strutturato e stiamo strutturando il racconto di questa nuova epoca. Potrebbe essere una profezia che si autoavvera. Una persona che ne è convinta è Luca De Biase, che è un giornalista, lavora al Sole 24 Ore, guida la redazione di Nova ed ha pubblicato da poco un libro che si intitola Homo Pluralis, essere umani nell'era tecnologica. Abbiamo parlato con lui partendo proprio dagli algoritmi. È una storia che nasce parlando di intelligenza artificiale. Erano 30 anni che si aspettava, che si annunciava, che si dichiarava imminente, anche menti enormi che dicevano che tra poco sarebbe arrivata la cosiddetta intelligenza artificiale, cioè macchine che sono capaci di pensare e di elaborare come gli uomini. Quello che è successo veramente è che l'eredità dell'ingegneria dell'intelligenza artificiale si è applicata non a delle conoscenze che dovevano essere ficcate dentro i computer, ma si è applicata alla conoscenza che c'è in internet, che c'è già, che è stata costruita da persone umane che facevano le loro cose e che nel fare le loro cose registravano quello che pensavano, scrivevano, lavoravano. E questa intelligenza artificiale applicata a conoscenze totalmente umane è diventata qualcosa di diverso, qualcosa che è capace effettivamente di prendere delle decisioni. È un insieme di umani e di macchine che si comportano in maniera apparentemente intelligente. Questo apparentemente intelligente è, fra virgolette, perché è di Tom Malone, che è il fondatore del Centro per lo Studio dell'Intelligenza Collettiva all'MIT. Lui dice apparentemente intelligente perché sottolinea, diciamo, il fatto che molto spesso si comportano in maniera sostanzialmente evidentemente stupida, ma c'è una capacità di prendere delle decisioni, c'è una capacità di operare delle cose insieme tra macchine e persone. L'esempio più grosso e dalle conseguenze più fondamentali, Radio 24 lo racconta tutti i giorni, sarebbe la finanza. Lì ci sono delle macchine con degli algoritmi che prendono delle decisioni a velocità pazzesche, che tengono conto di una quantità di dati incredibile, che hanno degli algoritmi che stabiliscono quali sono le regole di convenienza dei deal e che sono basate su decisioni prese da un insieme di macchine e di persone. Parlavi di intelligenza collettiva e si diceva un'intelligenza collettiva che agisce a volte in maniera stupida, perché forse perché è un'intelligenza collettiva quella che tiene dentro noi e le macchine, che non ha la coscienza di esserlo. Sicuramente ne stiamo parlando così tanto proprio perché stiamo cercando di capire dov'è la coscienza di questa cosa, che cosa è, chi la pensa, che come funziona. È sicuramente un sistema, non è un'identità, e quindi non la identifichiamo in maniera così semplice. Certo, quelli lì di Hong Kong hanno un algoritmo, lo chiamano Vital, ha un nome, è nel consiglio di amministrazione, ma in generale quello che avviene su Facebook, quello che avviene su Google, quello che avviene in rete in generale non ha un'identità, è un fenomeno, è un sistema. Qualche volta lo chiamiamo un ecosistema. E per interpretarlo stiamo sviluppando altre punti di vista, altri modi per ragionarci. Insomma, cosa ci sta dicendo Luca De Biase? Che dato che questa nuova rivoluzione delle macchine la stanno plasmando evidentemente gli esseri umani, molto dipende da quali obiettivi si pongono gli esseri umani mentre la plasmano e dalla condizione psicologica nel momento nel quale la plasmano, condizione psicologica che non è indifferente. L'esempio lo abbiamo portato anche la settimana scorsa, quando vi abbiamo parlato di robot ed etica. Nel momento nel quale una macchina deve prendere una decisione che ha a che fare con la vita o la morte o con la salute di una persona, va programmata perché sappia prenderla nel modo giusto. E spesso, ma non sempre, chi programma queste macchine e le progetta pensa soprattutto invece a come incrementarne le capacità, come renderle un sostituto efficace dell'uomo. perché tutto l'ambiente che lo circonda gli dice che l'obiettivo è quello, e anche noi lo pensiamo. Dunque, secondo De Biase, è questa impostazione che deve cambiare. Se la grande narrazione dice il progresso tecnologico supererà tutti i nostri problemi, e questa è una bella narrazione, cioè esiste ed è di grande impatto, tutti i comportamenti delle singole persone sono condizionati da questa narrazione, e i comportamenti di coloro che costruiscono le macchine sono condizionati da questa narrazione, e le macchine sono fatte in questo modo. La narrazione di questo tipo è del genere: tutte le volte che c'è un problema, la prossima versione delle macchine lo supererà. Questo tipo di narrazione fa in modo che tu abbia, da un lato, una sorta di ideologia che ti dice: adattati, adeguati alle macchine, tutto quello che hai fatto fino adesso è niente in confronto a quello che le macchine ti consentiranno di fare in futuro. In realtà i germi del cambiamento già ci sono e sono ben vivi. Un esempio su tutti è Wikipedia, che scherzosamente un paio di settimane fa abbiamo definito come una sorta di cyborg, perché è fatta da contenuti umani catalogati da un robot, un po' come tutto l'internet. Wikipedia è un pezzo di quello che comunemente viene definito l'ecosistema dell'innovazione, un ecosistema nel quale trovano spazio diversi modi di affrontare l'ondata tecnologica e nel quale la diversità consente la sopravvivenza di tutti, almeno teoricamente. Da chi segue una filosofia orientata al cosiddetto bene comune, a chi ne segue una orientata al mercato, e attraverso le mille gradazioni che ci possono essere tra i due estremi, tutte valide alla fin fine a costruire appunto l'ecosistema. Il racconto di questa nuova epoca dunque potrebbe essere questo. Fino ad adesso non ho mai trovato un computer che sia capace di fare le domande meglio degli uomini. E da questo punto di vista ho l'impressione che la narrazione ecosistema, che è una metafora, conduca a pensare che il futuro della relazione tra gli uomini, le macchine, gli algoritmi, i valori diversi, i punti di vista diversi, abbia la stessa destino di quello che noi abbiamo imparato a essere la narrazione dell'ecologia nel mondo naturale. Per cui vorremo, costruiremo un equilibrio, cercheremo di combattere l'inquinamento dell'informazione, cercheremo di combattere le logiche con le quali si svaluta e si escludono parti della società, costruendo molte, enormemente tante possibilità, e all'interno di queste possibilità alcune troveranno la loro nicchia ecologica, la costruiranno, la svilupperanno creando delle possibilità diverse per i diversi punti di vista. Secondo me questo è il motivo per cui, se noi cominciamo a ragionare in questi termini, possiamo pensare alla tecnologia, all'umano e alla struttura sociale come a qualcosa che evolve con la stessa logica dell'ecologia. Sono passati 50 anni. All'inizio gli ecologisti erano una minoranza di fricchettoni. Adesso sono la maggioranza. Il libro, ve lo ricordo dunque, Homo Pluralis, firmato da Luca De Biase, un libro che vi consiglio. Si chiude così questa puntata dell'era dei robot. Ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30. Scaricate il podcast e, se avete gradito, raccomandate la trasmissione ad altri esseri umani. Ho analizzato i dati e so già se c'è qualcosa che non va, ma mi manca il vostro punto di vista. Scrivetemi. Prossima puntata, che sarà quella finale, sarà un puntatone riassuntivo di parte di quello che ci siamo detti e raccontati in queste settimane di luglio ed agosto. Alla settimana prossima per i saluti finali. Intanto i ringraziamenti a tutti voi per l'ascolto e a Pietro Lacorte per la parte tecnica. Una buona giornata da Simone Spezia.